la lode è mia. E tutta la gioia è al mio comando, io distillo il piacere, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E ciò che adesso mi fa maravigliar nel giovinotto, tutto per tempo gli è del mio decotto. Affie, voi dite, incredula, affie, sapete voi dell'alchimia il poter, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta. Isotta, io noto ogni mistura ed ogni cotta. Io nel mulino poi destinir. Lei me lo chiese per ottener l'affetto di non so qual crudele. E in dunque languiva, sospirava, senza ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco incantato, vende la libertà.